capisce molto bene, comunque amore. Esclusivamente un affare di cuore, anche se non si può capire. È misterioso, soprannaturale, si può solo provare. Se lo conosci a malapena, è come un regalo luccicante, ma dentro niente di importante. Non fa poi tanta differenza se tu lo ami. Sapere